Le preoccupazioni di Amnesty International riguardano essenzialmente il rispetto delle norme internazionali sulla condotta delle ostilità e delle norme del diritto umanitario. Dalle informazioni in nostro possesso ci sono violazioni, infrazioni gravi commesse sia da parte dell'esercito americano e delle truppe irachene che da parte delle componenti armate dei gruppi iracheni operanti a Fallujah. Sono norme, sono infrazioni che riguardano la mancata distinzione tra obiettivi militari e popolazione civile, l'impedito accesso ai convogli umanitari nella città di Fallujah e nelle zone circostanti, l'uso sproporzionato della forza e in generale una condotta che è assolutamente al di sotto di quelli che sono gli standard previsti dalle convenzioni di Ginevra. Amnesty International già il 4 novembre, quindi alcuni giorni ancora prima dell'avvio delle operazioni militari di Fallujah, ha lanciato un appello a tutte le parti coinvolte, quindi al governo americano, al governo ad interim iracheno, ma anche ai comandi militari dei gruppi armati iracheni, per chiedere che venissero rispettate le norme internazionali sulla condotta delle ostilità. Oggi che abbiamo segnalazioni e denunce di abusi e di infrazioni gravi, chiediamo che siano immediatamente avviate delle inchieste, che siano portati di fronte alla giustizia i responsabili di questi crimini di guerra e processati, in accordo con gli standard internazionali di equità processuale.